Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Mai come in questo periodo questa regola, questo concetto è così vero. La gestione dei propri investimenti e dei propri risparmi non è un gioco da prendere alla leggera, perché parliamo di quello che abbiamo messo e quello che riusciamo a mettere da parte, quello che abbiamo risparmiato nel corso degli anni passati, al tempo stesso coinvolge anche tutti i progetti e la tranquillità del nostro futuro. Chi ha poca esperienza in questo ambito però difficilmente riesce ad intraprendere da autodidatta percorsi che possono essere anche molto rischiosi. È sempre bene fare molta attenzione alle scelte che si compiono e lavorare per costruirsi una base di competenza e suggerimenti da seguire. In un momento di crisi come quello attuale, poi, non saranno in molti a sentirsi incoraggiati nel correre dei rischi con il proprio denaro. La maggior parte dei risparmiatori adesso è probabilmente preoccupata di difendere i propri soldi. Ce ne saranno però anche sicuramente molti intenzionati a cogliere le opportunità che un momento come questo può riservare, però bisogna farlo con grande attenzione. Insomma, per giocare in attacco e gestire in modo vincente, non casualmente sto utilizzando questi termini, il proprio denaro, è importante diventare molto consapevoli e costruirsi un percorso di educazione finanziaria. Ma vincere si può, e per chi non si accontenta di partecipare ma vuole giocare la sua partita responsabilmente, c'è un libro in edicola da pochissime ore, fresco fresco di stampa, da ieri peraltro è veicolato anche attraverso la Gazzetta dello Sport, ed è un libro che utilizza proprio la terminologia sportiva per aiutarci a capire le strategie di investimento. Noi oggi ve lo presenteremo, ma lo abbiamo usato anche come pretesto per tornare a parlare delle questioni molto delicate legate all'educazione finanziaria, la capacità di capire come si può gestire al meglio il proprio risparmio cercando interlocutori chiari, affidabili, comprensibili, che ci spiegano bene come e in che modo investiamo il nostro risparmio. Allora, vi presento i nostri ospiti di oggi. Paolo Martini, che saluto. Paolo, buongiorno, bentornato. Buongiorno, benvenuti a tutti. È responsabile marketing del gruppo Azimut ed è l'autore di questo libro insieme al professore Ruggero Bertelli, professore associato di economia degli intermediari finanziari all'Università di Siena. Questo, per la verità, è il terzo volume di una trilogia, chiamiamolo così. Noi avevamo parlato anche degli altri volumi in passato che erano stati pubblicati con l'ausilio del Corriere della Sera. Il primo era Io non ci casco più, aveva in copertina una bella buccia di banana, naturalmente. Il secondo era Io ci provo, come cogliere le opportunità difendendosi dalle spine dei mercati finanziari, in copertina aveva una rosa. Il terzo volume invece proprio rosa, c'è una medaglia, perché qui parliamo di Io voglio vincere, 10 valori per smettere di partecipare ed iniziare a vincere nella gestione dei propri risparmi. Chi coadiuverà questa mattina? Paolo Martini, Lorenzo Marconi, che saluto. Lorenzo, bentornato, buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie. Consulente finanziario di lunghissimo corso, oggi peraltro impegnato anche in altre attività imprenditoriali molto avvincenti e molto curiose, poi se ne avremo tempo magari sul finire della trasmissione Lorenzo lo raccontiamo, ma soprattutto molti di voi lo ricorderanno perché in passato ha scritto Vaffan Banca, Vaffan Crisi e Mutande di Ghisa, insieme ad un altro amico di Salva Danaio che è Marco Fratini, oggi caporedattore dell'economia della Sette. Peraltro gli facciamo anche gli auguri a Marco, perché ieri sera è andata in onda la seconda puntata di una trasmissione che anche lì ha un titolo per nulla diplomatico, Soldi rubati, per cui insomma abbiamo fatto un po' il punto della situazione di tutte le persone che a vario titolo, anche insieme a noi di Salva Danaio, sono impegnate nella divulgazione finanziaria. È un lavoro molto difficile in questo periodo, molto arduo, lo è sempre, particolarmente complicato, ma in un periodo come questo davvero è molto complesso raccontare la dinamica di questa crisi e le modalità con cui si sta battendo sul risparmio anche delle persone che ci ascoltano. Allora, se volete interagire con noi questa mattina chiamateci all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Per dare qualche stimolo ai nostri ascoltatori racconto anche quello che sta succedendo oggi in borsa, così magari cogliendo qualche fatto specifico possiamo ampliare il nostro discorso per spiegare in termini più complessivi appunto le dinamiche dei fenomeni finanziari. Le borse oggi sono partite di nuovo male, questa mattina poi hanno tentato il recupero, poi sono ridiscese di nuovo, adesso le vedo veramente ferme intorno alla parità, con l'unica eccezione di Londra che perde mezzo punto. Stamattina quali sono i pretesti che gli investitori prendono per rivendere di nuovo sul mercato azionario? Milano perde lo 0,11%. Allora, c'è stato questo dato sull'andamento dell'attività manifatturiera cinese stamattina che è stato inferiore alle attese, il dato è sceso sotto i 50 punti, uno spartiacque che indica una contrazione economica. Se questo indicatore sale sopra i 50 punti, l'attività economica viene considerata in espansione, il dato è sceso appunto intorno a 47 punti, quello cinese è intorno a 48, 47 punti è quello dell'Eurozona, stamattina abbiamo due dati che si mettono insieme. Tutto questo stamattina viene colto appunto come un segnale preoccupante di una possibilità che l'economia globale possa ricadere in recessione, non è che sia tanto una sorpresa, però questi timori ogni giorno si concretizzano sempre di più. Abbiamo avuto altre notizie dal Belgio, perché sembra che possa essere messo in discussione il dichiarato qualche settimana fa piano di salvataggio della banca franco-belga Dexia, un salvataggio di cui si sono fatti carico il governo francese e il governo belga. Il governo belga ha detto però: io non sono più in grado di metterci dentro tutti i soldi che avevo promesso, probabilmente la Francia dovrà fare una parte più alta, più sostanziosa, e questo stamattina ha ridisturbato il mercato. Non capisco perché il titolo cresca del 10%, poi me lo spiegherete voi, però di fatto questo rimbalzo un po' di responsabilità o di assunzione di responsabilità stamattina sta portando anche a questa dinamica. Lo spread fra il BTP e Bund, anche questo ormai mangiamo pane spread tutti i giorni, è risalito stamattina oltre 500 punti base, poi si è appreso che in Germania anche lì cominciano a fare qualche difficoltà con le aste dei titoli tedeschi. Naturalmente c'è stata un'asta che ha collocato circa 4 miliardi di titoli contro i 6 attesi, il rendimento è sull'1,98%, e questo stamattina è stato un segnale insomma che è stato osservato con grande attenzione dagli investitori. Non so che cosa possa voler dire, anche questo magari sarà un tema che gireremo ai nostri interlocutori di questa mattina. Rapidamente sulle migliori titoli di Milano: Saipem più 1,43, Enel più 1,10, Lottomatica più 0,8, i peggiori, Paolo, scusami, Azimut perde il 2,73% questa mattina, la Popolare di Milano meno 2,27, meno 2 abbondanti per Fiat, Mediolanum, Mediobanca, risale il Banco Popolare, poi c'era la Popolare dell'Emilia Romagna che perdeva più del 6%, adesso non so neanche dove sia finita, addirittura forse ha girato in positivo, adesso non la ritrovo, però insomma stamattina erano tra i titoli peggiori. L'euro sul dollaro, siamo sotto 1,34. E 1,3394 esattamente, questo è forse il segnale più evidente delle difficoltà della zona euro, appunto, che non sembra volersi risolvere nel giro di poco tempo. Allora, andiamo subito al tema di oggi. Presentiamo il libro Io voglio vincere di Paolo Martini. Ne abbiamo un breve estratto, Paolo, sentiamo se ti piace il pezzo che abbiamo scelto. Nel mondo degli investimenti finanziari non si ottengono risultati per caso, soprattutto oggi. Investire è utile perché consente di conservare il potere d'acquisto dei tuoi risparmi, ci dimentichiamo troppo spesso di questo aspetto, e ti aiuta a soddisfare dei bisogni importanti, che possono essere ad esempio mandare i figli all'università, comprare una casa, cambiare la macchina, fare una vacanza, toglierti un ospizio o semplicemente dormire sonni tranquilli, che diversamente non potresti permetterti con le tue normali entrate. Questo significa investire, e se fatto nel modo corretto non è nemmeno così complesso. Le regole sono poche e chiare. Il difficile sta nel seguirle, in questi anni di crisi lo è ancora di più. Conoscendo e rispettando i valori degli investimenti, così come nello sport, i risultati arrivano. Anzi, proprio il lungo periodo di difficoltà, sono ormai più di 10 anni, di cui gli ultimi 3 meritano ben pochi commenti, fa sì che questo possa essere potenzialmente il miglior momento per iniziare a investire degli ultimi 50 anni. Nessuno sa naturalmente cosa succederà nel futuro, ma come insegna la finanza comportamentale, è meglio cominciare a investire dopo una lunga discesa piuttosto che dopo una lunga salita. E che la discesa sia stata lunga, nessuno dubita. Investire conviene ancora, solo che ultimamente si tende a confondere l'investimento con la speculazione. A tutti piacerebbe dare oggi 1000 euro e ritrovarsene 1200 2 giorni dopo, ma questa è solo avidità. Non si deve confondere il passato con il presente, l'investimento con la speculazione, la negatività con l'oggettività, l'improvvisazione con il metodo. Bisogna riscoprire cosa vuol dire investire in modo scientifico e non improvvisato, avere un metodo chiaro e seguire i valori dell'investimento finanziario. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi. Vedo già i centralini incandescenti, peraltro con le domande della più varia umanità. Allora, nel mondo degli investimenti finanziari non si ottengono risultati per caso, soprattutto oggi, però qualche volta qualche evento capita un po' per caso e per caso lo scopriamo, Paolo Martini, e scopriamo che i nostri investimenti non ci hanno dato i risultati che credevamo. Insomma, non è proprio così distaccato il tema del caso dall'economia? Ma diciamo che in questo periodo sicuramente è difficile parlare di questi temi, ma è fondamentale farlo, perché se non si riesce in qualche modo ad avvicinare un po' più le persone comuni a questi temi, veramente si finisce sempre per creare un maggiore distacco fra il mondo finanziario e l'industria nel suo complesso, che parla un linguaggio molto suo e vive in un mondo un pochettino suo e il largo pubblico. Per cui sicuramente il caso incide, oggi si vive in mezzo al caso, perché devo dire che ogni giorno ce n'è sempre una e sembra che a questa negatività non ci sia mai fine, però è indubbio che con un po' di metodo e un po' di scientificità si può decisamente controllare un pochettino questo caso, e nel libro c'è qualche spunto sul tema. Allora, il tema fondamentale che viene toccato dal libro, così come da quelli di cui ho parlato prima, quelli scritti da Lorenzo Marconi con Marco Fratini, è quello dell'educazione finanziaria, ma anche la capacità di trovare degli interlocutori divulgativi. Lo scopo di queste pubblicazioni è anche questo: cercare con termini semplici di spiegare come va il mondo finanziario oggi. Lorenzo Marconi, un esercizio acrobatico per la verità. Bueno, mi ricollego a quanto detto Paolo sul discorso del linguaggio, è diventato fondamentale. Purtroppo, come abbiamo scritto in mille salse, il linguaggio della finanza e dell'economia è cosiddetto autoreferenziale, per cui tende ad allontanare la gente, non ad avvicinarla. Se in più consideriamo che, esclusa questa trasmissione, diciamo, no dai, lo sai, sai benissimo come la penso, non è la prima volta che partecipo e ci siamo confrontati su questo fatto anche in diversi convegni, purtroppo in certe situazioni mantenere il risparmiatore, e volutamente dico risparmiatore non investitore, un po' ignorante, un po' spaventato, fa comodo a molti. Il problema è che quello che abbiamo, tra l'altro, il leitmotiv su cui verte proprio il concetto di mutande di Ghisa, gli investitori risparmiatori non hanno ancora capito che il pericolo numero uno è il nostro cervello, è l'emotività che la fa da padrona. Invece, e poi soprattutto in momenti come questi, andare a controllare l'emotività sappiamo benissimo che è molto difficile. Non a caso la parola spread negli ultimi 2 mesi è stata pronunciata più volte della parola mamma. Questo credo che ci siano anche dei sondaggi. Lo abbiamo ricordato anche noi tante volte. Io ho sempre detto che l'unico del quale mi ricordavo, per la verità, fino a 6 mesi fa, era quello che la banca mi aveva applicato al mutuo, quella che, con sì, cui esatto, aveva ricaricato praticamente il tasso di interesse di mercato. Allora, sul tema peraltro che il pericolo più grande del nostro investimento è rappresentato da noi stessi, l'ho detto in maniera un po' brutale, no, Paolo Martino, così, lo dici anche tu, no, nel tuo, sì, libro. Questo è uno dei fili conduttori di tutti e 3 i libri. In questo c'è un capitolo dedicato che è quello sull'autocontrollo, che è il numero 6, siccome tutto il libro cerca di spiegare concetti molto importanti in maniera semplice, che non vuol dire semplicistica. E ci sono moltissime metafore, una di queste è quella di Star Trek, quindi di Spock, e dice che sicuramente la sua razionalità in molti casi sarebbe una preziosa molto alleata, molto importante, perché quello che capita è che noi siamo travolti da questa onda di emotività che oggi vediamo sulla parte negativa, perché è impossibile vederla diversamente, ma lo stesso principio si applica anche alla parte positiva. Basta pensare al mondo dei titoli tecnologici nel 2001, dove anche qui si parla di ballare l'alligalli, dove in pratica in quel periodo lì, se non avevi un titolo tecnologico, ti sentivi veramente un signor nessuno. Non vorrei che adesso succedesse la stessa stessa cosa con il BTP, perché adesso con questo esercizio anche dell'orgoglio nazionale di salvare il nostro paese, sponsorizzato da molti, sappiamo benissimo che lunedì ci sarà anche questo BTP Day, peraltro lo anticipo già ai nostri ascoltatori, noi ce ne occuperemo anche direttamente a Salvadanaio lunedì prossimo, non vorrei appunto che anche quella diventasse la moda, è una situazione completamente diversa naturalmente. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido, e quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò, guarda la tua ruota, io ci sarò. Questa è stata una mia debolezza, io sono un'appassionata di Enrico Ruggeri e siccome aveva scritto questa canzone qualche anno fa che aveva accompagnato il Giro d'Italia, l'ho subito ripescata, Gimondi e il Cannibali, ma anche perché insomma il paragone con il mondo sportivo viene accuratamente approfondito appunto in questo libro Io voglio vincere di Paolo Martini, dove ci si occupa per la verità di mondo degli investimenti e della capacità che hanno anche i piccoli risparmiatori di affrontare il percorso finanziario, il percorso della gestione della propria finanza e del proprio risparmio, un percorso molto complesso del quale molto spesso non si ha consapevolezza, perché non si ha consapevolezza di quello che si vuole dal proprio denaro. È chiaro che tutti vogliono guadagnare, ma in realtà forse qualche volta non si riesce a fare un discorso costruttivo con il consulente con chi si segue, e allora qualche volta in questo percorso ci si imbatte in qualche ostacolo, in qualche brutta sorpresa. Allora come possiamo fare invece in modo che tutto questo non capiti? Insieme a Paolo Martini, che è l'autore di Io voglio vincere, c'è anche con noi questa mattina Lorenzo Marconi, che invece in passato, lo ricorderete, è stato il coautore di Vaffanbanca, Vaffancrisi, Mutande di Ghisa, persone che insomma con il tema dell'educazione finanziaria combattono da molti anni per cercare di portare anche questo tema tra la più vasta platea possibile. Allora 800240024 è il numero verde per le vostre domande. Peraltro, Lorenzo, volevo chiederti un po' un tema che abbiamo affrontato anche settimana scorsa, abbiamo fatto un altro tipo di lavoro con un gruppo di consulenti finanziari che abbiamo messo a disposizione anche a microfoni spenti dei nostri ascoltatori per capire quali fossero le preoccupazioni che magari avevano anche un po' di pudore a raccontare in diretta in radio. In molti ci hanno chiesto, ma insomma mi spiegate esattamente questo spread, come funziona, ma chi è che ci fa pagare tutti questi tassi di interesse? Insomma, dietro tutto questo che noi chiamiamo ogni giorno tempesta finanziaria che si sta abbattendo sull'Italia, deve preoccuparci o no? Insomma, come vedi anche questa situazione? Poi andremo alle singole richieste dei nostri ascoltatori che sono già pronti al centralino. La scoperta dello spread, secondo te, è stata una buona cosa per le famiglie italiane, del differenziale di rendimento fra i nostri titoli e quelli tedeschi? Deve davvero preoccuparci questa situazione? Come la vedi? Ma guarda, parto dal concetto della comunicazione. Secondo me lo spread spaventa le famiglie italiane non tanto per il contenuto quanto per la forma, cioè in altre parole è il modo con cui viene veicolato il messaggio legato all'allargamento dello spread che fa più paura rispetto a quanto realmente, e lo dico con rispetto per tutti i nostri radioascoltatori, quanto realmente queste persone capiscano cosa significa l'allargamento dello spread. Io provo a tradurlo in una parola che dovrebbe essere il primo punto di partenza nella valutazione di un investimento, che è la parola rischio. Per cui se un bene paga un interesse, se un investimento paga un alto interesse, vuol dire che c'è un rischio elevato. E questo è il primo criterio, ripeto, di valutazione di un investimento, perché anche qui ormai non si inventa, al di là di tutte le tematiche legate all'ingegnerizzazione finanziaria e alla costruzione di prodotti che ormai non capiscono più nemmeno quelli che li costruiscono, figurarsi quelli che li vendono, quelli che li comprano. I temi sono sempre questi: rischio, rendimento, tempo. Purtroppo però anche qui c'è stata un'educazione dalla nascita, parliamo dalla nascita dei fondi comuni, senza tornare a Carlo Codega, l'educazione è sempre stata... Che citi tra l'altro Paolo Martini nel libro, non mi sei sbagliato, ricordato. Il problema è che non si parla mai abbastanza di rischio, si parla troppo di rendimento e non entro nel fattore tempo, che comunque è in questo. Tu hai citato una parola a me estremamente cara, che è la parola consapevolezza, alla quale, se posso permettermi, aggiungo un altro fattore, che è il fattore C, che non è il lato B, il lato B tanto delle, caro delle veline. Delle veline, ma è la cosiddetta condivisione delle scelte, cioè ancora oggi c'è una certa reticenza al dialogo tra il cliente consumatore e il consulente nell'esplicitare quelli che sono le esigenze e gli obiettivi finanziari, quasi come una sorta di non voler far sì che qualcun altro si faccia gli affari nostri. Invece è come andare da un medico e non raccontargli quali sono le nostre patologie, ed è chiaro che più invece si instaura un dialogo di consapevolezza, quella che io ho definito una relazione forte che porta a un concetto di partnership, perché secondo me il consulente diventa di fatto l'amministratore delegato del patrimonio del cliente, cioè è come se un azionista di maggioranza delineasse delle strategie aziendali e non comunicasse le proprie esigenze al proprio amministratore delegato. Come fa quel povero Cristo a raggiungere gli obiettivi desiderati se non conosce quelle che sono le volontà dell'azionista di riferimento? È perché molto spesso passa anche un altro messaggio negativo, che non riguarda tutta la platea dei consulenti e dei promotori finanziari, ma che questi vogliano solamente piazzare il prodotto che per loro è più remunerativo. Allora parliamo del tema della distribuzione. Ok, perfetto. Chi ti vuol vendere invece semplicemente un prodotto finanziario? Premesso che secondo me la vendita to court dei prodotti finanziari è morta, ma ce ne accorgiamo solo in pochi, e dal settimo all'ottavo piano di determinate istituzioni ancora non se ne sono accorti. Il problema è proprio questo: guarda che chi ti vende un prodotto, chi ha voglia di venderti un prodotto finanziario, non te ne fa tante di domande. Cerca di venderti il prodotto, enfatizza le caratteristiche, i vantaggi che sono necessari a crearti il sogno, l'illusione, perché poi noi, parliamoci molto chiaro, il concetto di emotività parte dal fatto che il nostro cervello cerca delle scorciatoie, le cosiddette famose euristiche, no? Il cervello non vuole far fatica, cerca delle scorciatoie e fa anche delle contabilità mentali molto molto molto rapide, molto, ma assai errate purtroppo, e qui il sogno è più facile credere, insomma. Ma tra l'altro la favola di Pinocchio è emblematica in questa situazione. Molto più facile credere che mettere degli zecchini d'oro sotto una pianta. Invece ecco, intraprendere un rapporto consulenziale, intraprendere una partnership con un consulente, con un promotore finanziario, ci sono tanti promotori finanziari molto preparati, è un percorso difficile che implica una cosa: che il cliente assuma un ruolo fondamentale, cioè il ruolo del cliente. Al cliente non si chiede di diventare un esperto finanziario, al cliente si chiede di assumere il ruolo di cliente, e per cui assumersi il ruolo di cliente significa fare domande, cercare di capire di più, rapportarsi appunto in un dialogo fatto di consapevolezza, ma soprattutto di condivisione delle scelte. Ti dico intanto che un ascoltatore ci aveva scritto a Salvadanaio all'indirizzo di posta: mi piacerebbe che i suoi interlocutori spiegassero l'aspetto che secondo me è il più importante negli investimenti, cioè la gestione del rischio, per cui abbiamo già risolto questa pratica, quindi quanto rischiare del proprio capitale in un certo investimento, come gestire le perdite oltre che come gestire i guadagni. Paolo Martini. Sì, no, sul tema del rischio sento di aggiungere una cosa molto molto importante, che quello che è successo oggi è che è cambiato il concetto di rischio, per cui quello che fino a poco tempo fa e fino al 2008 non era assolutamente percepito, che è il rischio controparte, oggi è un tema tale, di una tale importanza, che non si può far finta che questo non capiti. Per cui non solo è importante il rischio, bisogna anche intenderci bene da che cosa si intende per la parola rischio, per cui è indubbio che oggi c'è un tema che prima non c'era, e che se capita porta ad avere degli svantaggi molto molto forti, perché alla fine perdi i tuoi soldi, quindi il tema della diversificazione della controparte è un tema oggi molto molto importante. Allora, tra l'altro, il tema della diversificazione è molto bello. Vorrei stressare anche un altro tema legato a questo insieme a voi: il fatto che molto spesso non è che però tutte le famiglie abbiano così tanto di risparmio da poter diversificare in 10 prodotti finanziari, per cui anche lì bisogna poi avere molto rispetto anche ovviamente di chi ha patrimoni più modesti, e più che permettersi l'interlocutore della banca non può permettersi un consulente finanziario che gli dica: guarda, questo prodotto non va bene, ne dovessi prendere 10 e mettere le tue 10 uova in 10 panieri, ma non è sempre semplice. Lorenzo Marconi. Credo, interpretando anche il pensiero di Paolo, noi non siamo contro le banche, anche perché, così mi permetto di ribadire un concetto, quando Marco ed io abbiamo scritto Vaffanbanca, che qualcuno ha detto che era pure in ritardo, l'abbiamo scritto 2 giorni prima che fallisse Lehman Brothers. Ora mi sembra persino in anticipo, visti i tempi, perché mi sembra ancora più attuale di 4 anni fa questo libro. La motivazione vera della nostra opera era quella proprio di creare un dialogo, un link tra un sistema finanziario bancario abbastanza complesso e sconosciuto ai clienti e appunto la conoscenza dei clienti da parte delle banche. Cioè io credo che le banche non siano cattive, semplicemente manca un dialogo, cioè c'è una attività dal mio punto di vista troppo commerciale, troppo orientata alla vendita e poco al dialogo e alla consulenza col cliente. Questo cosa significa? Che anche il cliente che ha meno possibilità economiche dovrebbe trovare, in maniera meno sofisticata chiaramente, in maniera meno evoluta, però dovrebbe trovare nell'interlocutore bancario comunque lo stesso dialogo che il milionario trova con un consulente. Cioè il milionario si compra la Ferrari e quello che ha meno soldi si comprerà un'utilitaria. Perché? E non cito delle marche, ma non è che necessariamente deve essere obbligato ad andare in giro a piedi perché ha meno soldi, perché no? Come dice Marco Fratini, la banca è un negozio e non è una chiesa. E allora, eccoci di nuovo in diretta, andiamo subito ai nostri ascoltatori. Francesco da Catania che aspetta da un po'. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Appunto, io in base all'argomento di oggi avevo un quesito. Non ho mai avuto esperienze di investimenti finanziari, vabbè che non abbia molto da investire, anzi veramente poco. E proprio per questo volevo sapere se... Però quel poco va protetto, Francesco, no? Penso proprio di sì adesso. E proprio in questo periodo non so se sarebbe il periodo giusto o no per provare a mettere qualcosa da parte o vedere di ricavarne qualcosa. Ecco, allora Francesco, se hai sentito bene la prima parte della trasmissione, i nostri relatori, i nostri ospiti di questa mattina hanno detto intanto ognuno deve fare una gestione del proprio risparmio, del proprio investimento, indipendentemente da quello che ci capita intorno. Difficile farlo in questo momento, perché adesso semmai ci deve una fase come questa raddrizzare le antenne ed essere più attenti. Però lui dice, non avendo particolare preparazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, si è però incuriosito sul fatto se questo potrebbe essere il momento giusto per, come dire, cominciare ad avventurarsi nel terreno. Direi che forse questa persona, Paolo Martini, deve trovarsi un buon consulente che lo accompagni prima nella preparazione un po' di come funzionano le cose. Sì, allora il primo consiglio è non avere fretta. Secondo è informarsi e quindi leggere anche Io voglio vincere o gli altri libri di cui parlavamo oggi. Può essere un buon modo per avvicinarsi in maniera semplice a un argomento per sua natura complesso che richiede comunque impegno. Perché come dicevamo prima, fare il cliente è anche faticoso e quindi occorre necessariamente informarsi e aiutare il proprio consulente a darti il servizio che il cliente si merita. Per cui il terzo passaggio è conoscere qualcuno e iniziare a porgli una serie di quesiti molto molto chiari, e nel capitolo 9 c'è qualche spunto a tal proposito. No, poi quello che non ha detto Francesco è, in realtà lui ha specificato il fatto che ha poco risparmio, che non ha conoscenza di come funzionino gli strumenti finanziari, però ovviamente noi non lo abbiamo chiesto, non ci ha detto io dal mio risparmio mi aspetterei questo, gli ho suggerito io, quantomeno questo va conservato e protetto, Lorenzo Marconi, sì, no, quindi questo d'accordo. Forse è un errore di fondo. No, bravissima, io sono assolutamente d'accordo. Di solito questa è una domanda che si banalizza con il concetto quanti anni hai, invece bisogna guardare quello che appunto è l'obiettivo finanziario, perché in funzione dell'obiettivo finanziario potrebbe avere un lavoro autonomo e costruire una pensione, sfatiamo voler comprare casa fra 5 anni, per cui il suo risparmio potrebbe avere destinazioni più articolate. No, ma sfatiamo un mito: non esiste il prodotto migliore e non esiste il prodotto peggiore, esistono prodotti con caratteristiche diverse che si devono accompagnare appunto a obiettivi finanziari diversi. E soprattutto una cosa, il rischio e la cosiddetta consapevolezza del rischio, i clienti devono imparare a fare delle valutazioni di rischio a prescindere dall'andamento dei mercati, perché la taglia del nostro vestito noi non la scegliamo in funzione della stagione, semmai è il contrario, cambieremo la stoffa se fa più caldo o se fa freddo, ma il rischio è come la taglia di un vestito, il rischio ce lo dobbiamo ritagliare a prescindere da quelle che sono le situazioni dei mercati. Invece cosa succede? succede? Che i clienti aumentano la propensione al proprio rischio quando le cose vanno molto bene, è perché è una delle molle che ci muove l'avidità, e invece l'altra molla, che è la paura, fa sì che riduciamo il rischio quando le cose vanno male sui mercati. Sentirei Cinzia da Treviso, perché mi incuriosisce molto questo suo passato di risparmiatrice molto oculata, che però, pur avendo, da quello che capisco, salvaguardato il proprio risparmio, non è soddisfatta neanche di questo. Cinzia, buongiorno, se non ho capito male. Sì, sono in linea? Sì, certo, in diretta, okay, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, la mia appunto non era solamente un'osservazione, volevo sentire così il parere di esperti. Io, con l'aiuto appunto di promotori, di gente esperta, sono riuscita in questi 10 anni a salvare il mio capitale, però è rimasto quello, cioè voglio dire, se lo tenevo in conto corrente era uguale. Così, era solo un'osservazione, non è che certo. Mi lamento. No, Cinzia, no, però guardi, lei ha coscienza di quello che è successo negli ultimi 3 o 4 anni, sì, in tutto il mondo. Di ecco. Salvato. Infatti, però lei aveva un obiettivo di raddoppiarlo, di farlo crescere molto 10 anni fa, ecco, aveva delle aspettative modeste che aveva probabilmente condiviso col suo consulente. Forse per cui il consulente già questo è un ottimo risultato adesso, lei però perché non è soddisfatta? Non sono soddisfatta, così, cioè, volevo sentire il parere di esperti, cioè solo perché le cose sono andate male, quindi voglio dire, il fatto di essere uguale a prima, è già questo un bene, è questo. Certo, no, perlomeno per me, Cinzia, poi magari per il da loro. Questo lo è per me, Cinzia, io non sono nella sua condizione, non ho la sua propensione a risparmio, ho esigenze diverse, però a me sembra già, dati i chiari di luna attuali, un buon risultato. Questa è una sana ambizione, Paolo Martini, quella della nostra ascoltatrice? Può anche essere considerata come una sana ambiziosa, ma innanzitutto io le consiglio per Natale di fare un bel dono al suo promotore finanziario, perché con quello che è successo negli ultimi 10 anni devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Stiamo attraversando e stiamo vivendo un'epoca che non ce lo potevamo immaginare fino a pochi anni fa, quindi aver conservato il proprio capitale oggi è già un traguardo di peso. Sul tema dei fondi e il tema della diversificazione, per rispondere anche un attimo alla domanda che mi stavi per fare prima, devo dire che al di là del fatto che, come sappiamo perfettamente, in Italia molti fondi, diciamo il risparmio gestito nel suo complesso, è stato gestito magari non sempre bene e distribuito neanche altrettanto bene. No, proprio scarsamente distribuito, ecco. Direi recentemente, perché le banche hanno dovuto fare raccolta con altro, però vabbè, questo è un altro tema. Sul tema dello strumento invece oggi si sta dimostrando uno strumento capace di attuare quella diversificazione anche su piccole cifre di cui parlavamo prima, non a caso quindi oggigiorno, mentre prima con qualche titolo uno poteva sentirsi tranquillo, oggi essendo cambiato il contesto, i fondi secondo me, se cambieranno un po' la loro value proposition e saranno proposti e gestiti in maniera differente, potranno avere una nuova fase. Abbiamo anche importante. Adesso tutto un turbine di cambiamento di normativa, di tassazione, Lorenzo Marconi, che forse rende ancora un po' più complicato il rapporto con questo strumento di risparmio. Sì, ma secondo me i risparmiatori sono poco attenti al concetto della tassazione. Della tassazione. Invece mi ricollego alle osservazioni dell'ascoltatrice, perché lei ha proprio citato alcuni aspetti della finanza comportamentale molto chiari. Intanto, quando si valuta un investimento bisogna valutarlo nella contestualizzazione del presente. Le valutazioni con il senno di poi sono un esercizio stupendo fatto dai clienti, ma se ragionassimo sempre con il senno di poi, facciamo poca strada. E poi l'altro sintomo molto bello usato è la cosiddetta sindrome dell'insoddisfazione permanente. No? Noi perché lei aveva la tentazione di essere insoddisfatta, poi noi abbiamo tentato di convincerla del contrario, dice, ma forse sì, mi devo accontentare. Se si guarda gli indici dove sono. No, beh, ma poi come giustamente sottolineava Paolo, cioè dal 2007 ad oggi, dal fallimento di Lehman Brothers, possiamo veramente pensare che è nata una nuova era, come prima di Cristo e dopo Cristo, cioè il 2007 ha creato veramente un nuovo paradigma, una nuova era, cioè abbiamo visto le obbligazioni corporate essere quasi cancellate da un mercato, un mondo come quello degli hedge che si è azzerato, e oltre al crollo dei crediti c'è stato pure il fallimento di Madoff, che comunque ha portato stato veramente, cioè tutta una serie di elementi, tra l'altro, che io oso chiamare contro natura. Non c'è stata più decorrelazione tra gli attivi, insomma, i mercati azionari che sono crollati. E poi fatemi dire un'altra cosa, anzi due cose: se 10 anni fa qualcuno di noi avesse detto che Lehman Brothers sarebbe fallita, lo mettevano dentro e buttavano via la chiave. Infatti. E l'altro tema, l'altro tema estremamente attuale, ma chi avrebbe mai pensato che il rischio di default sugli stati, e su degli stati importanti, non stiamo parlando del nostro paese, di paesi anche di serie B, sarebbe stato così presente e così di attualità? Allora, quanti altri temi vorrei affrontare con voi? Avete sentito, è arrivata la sigla. Vi ricordo allora, per gli appassionati di sport e non solo, e di finanza, potete trovare questo felice connubio in edicola con la Gazzetta dello Sport, Paolo Martini e Ruggero Bertelli hanno scritto "Io voglio vincere", 10 valori per smettere di partecipare, di iniziare a vincere nella gestione dei propri risparmi, mentre per chi se li fosse perso in passato ci sono sempre in libreria Vaffanbanca, Vaffancrisi e Mutande di Ghisa di Lorenzo Marconi e Marco Fratini. Torniamo domani, buona giornata.